24. La storia. L'immigrazione italiana si può dividere in due grandi gruppi. L'antica emigrazione, la vecchia emigrazione, quella per necessità, e la nuova emigrazione, quella col computer, con l'euro e con l'EasyJet, con l'email. Poi c'è una terza emigrazione che consiste in una persona sola, Giovanni Trapattoni. Tutta la vita è una sfida. Il calcio ti fa gioire, ti fa soffrire, ti fa ripartire. Il capitano di un libro di Corral, che è proprio felice che ci sia la tempesta perfetta per provare che in qualche modo lui è un uomo. Die Spieler brauchen andere Kulturen. I think we can work together, no all time. Bravo, Jose! Spicca però, spicca! No, cianciun, seghinchin, seghin, no, ciao, ecco. Un europeo vero, dalla Germania all'Austria, dal Portogallo all'Irlanda. Trapp Magno, cioè un personaggio leggendario che gira per l'Europa di cui qualcuno ha sentito parlare, ma la cui esistenza non è mai stata veramente provata. Un personaggio da leggenda, insomma. Giovanni Trapattoni, oggi a Mix 24, raccontiamo la sua storia. L'allenatore che ha vinto di più in Europa, che ha conquistato scudetti e coppe in Italia, in Germania, in Portogallo e in Austria. Una sorta di ambasciatore del calcio italiano che, dopo aver guidato senza fortuna la nazionale, si ritrova sulla panchina dell'Irlanda dal 2008 al 2013. L'Irlanda di Trapattoni il primo aprile del 2010 incontra gli azzurri per la qualificazione mondiale del 2010 in Sudafrica. Una partita che mette in gioco mille emozioni, come dichiara lo stesso mister. Questo inevitabilmente, questa leggera tensione prima delle gare c'è sia da noi e anche negli avversari, è inutile negarlo, non vedo mai avversari che sorridono prima della partita, semmai dopo. E siamo in verde. Noi giochiamo per vincere e vincere sarebbe una bella soddisfazione. E di soddisfazioni sulla panchina irlandese Trapattoni se ne è già tolte diverse, a cominciare dai risultati ottenuti fino a questo momento nel girone di qualificazione. A pari punti con l'Italia su 4 partite giocate, la sua Irlanda ne ha vinte 3, pareggiando la quarta. Ma la soddisfazione più importante forse è stata proprio quella di essere stato scelto a 70 anni compiuti, come spiega l'amministratore del FAI, John Delany. Perché abbiamo scelto Trapattoni? Perché è il migliore. Nelle partite che lo hanno visto alla guida della nazionale irlandese ha dimostrato una preparazione, una professionalità e una vitalità impressionanti. Sotto la guida di Trapattoni, l'Irlanda comincia il suo cammino verso i mondiali del 2010 nel migliore dei modi. Nel girone di qualificazione a pari punti con l'Italia è ancora imbattuta, come raccontano il portiere dell'Eire, Shay Given, e Trapattoni. Trapattoni dà coraggio alla squadra. Forse avevamo una bassa autostima, ma il mister ci ha dato una iniezione di fiducia, facendoci capire che eravamo abbastanza forti per la qualificazione. Sei gratificato quando vedi che ciò che dici i ragazzi lo realizzano e riesci a realizzare appunto quello che è un tuo disegno. I live the game. Io voglio vincere. You understand? Cleverly worked by Robbie Keane, releasing Aidan McGee. A volte il gioco non è dei più belli, ma per lui la cosa più importante è vincere la partita e poi pensare alla prossima. In campo c'è un pallone. O ce l'hai tu o ce l'hanno gli altri. O lo domini tu e vinci, o quando ce l'hanno gli altri devi difenderti. Insomma, un concentrato della sua filosofia calcistica, una filosofia che il Trapp ha elaborato nel corso di una carriera lunghissima, ricca di colpi di scena, come quando nel 94 proprio il Trapp ha aperto la strada delle panchine straniere agli allenatori italiani, scegliendo a sorpresa di andare ad allenare il Bayern Monaco. Andai perché intanto Rummenigge parlava italiano, perché il Bayern è un grande club. E poi questa esperienza così straniera mi ingolosiva. Il Trapattoni, che per formazione, per conoscenza linguistica, sembrava proprio nato per rimanere addirittura in una regione, che è la sua Lombardia, sembrava già all'estero in Umbria, pensandoci, è diventato un europeo vero. E la tua cultura professionale e personale si allarga e vivi in un'altra dimensione. che è quella di capire anche gli altri sotto molti aspetti, non c'è solo quest'angolo acuto italiano. Ja, ich habe nicht gedacht before, aber nach ich probiere in diesem Zug, meine Frau gesagt, du bist schön. You shake my nerves and you rattle my brain. In that love there's a man insane. Ho dovuto mediare le mie abitudini, le mie conoscenze a quelle che erano le loro abitudini. Non sono andato a togliergli lo yogurt con l'insalata. Nuove leve, nuove culture. Cambiando quelle che erano le abitudini anche tecnico-tattiche di allenamento. Quando ho capito che era un po' troppo violento il sistema di allenamento, rallentai, gli dissi adesso giocate come sapevate fare. Poi furono loro a chiedermi, mister, cominciamo a mettere dentro 10 minuti ogni tanto di quello che lei voleva insegnarci. E quindi riuscire ad entrare nelle loro abitudini gradualmente, trasformando il pian pianino, accettando quello che era una parte di loro e inserendo quello che era una parte mia. La pazienza di Trapattoni dà i suoi frutti. Nel 1997 il Bayern di Monaco vince lo scudetto e la Coppa di Lega, seguiti l'anno successivo dalla Coppa di Germania. Nel marzo del 98 alcuni giocatori si lamentano con la stampa. Criticano i cambi di Trapattoni e l'eccessivo turnover, come spiega il mister e Bruno Longhi, giornalista sportivo. Questo famoso turnover o il ricambio di giocatori da una prestazione all'altra. A lui non ne poteva più di questa cosa, mi chiamò dicendomi se per caso avessi una telecamera, perché adesso esplodo. E dissi, questa è un'ernia del disco, si allena 15 giorni ed è fermo 2 mesi, ma cosa pretende questo Strunz? La tirata contro Strunz è rimasta una leggenda, non solo per noi italiani, che naturalmente abbiamo alcune assonanze, ma per gli stessi tedeschi. Strunz! Tu si sbagliaria che spiel sei spiel, i sino per basta, erlaue, strunz. C'era il solito gruppetto di italiani, quella fu la rivincita degli italiani all'estero, no? Si misero ad applaudire, io dissi voi state zitti perché sennò. Musse sai di essere spiel, santa, chi si spiel, musse sai di mi, e sai di per, musse all'aire di spiel che vive. In Germania non dicono più ich bin fertig, che vuol dire ho finito. Dicono ich habe fertig, che in tedesco è grammaticalmente sbagliato, ma questo, il tedesco di Trapattoni era una lingua nuova. Un artista della conferenza stampa, come avete sentito da Beppe Severnini, un abile comunicatore che dovunque andato si è fatto apprezzare, oltre che per le sue doti calcistiche, anche per la sua innata simpatia. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24 con la storia di Giovanni Trapattoni, grande calciatore, grande allenatore che si fa apprezzare in Europa non solo per la sua capacità tecnica, ma anche perché riesce a farsi capire in tutte le lingue, a cominciare dal portoghese, come racconta il preparatore atletico Fausto Rossi. E il trap. E io ho guardato la conferenza e ho visto che sotto c'era la traduzione. Lui invece pensava di parlare bene il portoghese. E quando il giorno dopo ci siamo rivisti, mi ha detto: come sei andato? Ho visto già me la cavo abbastanza bene col portoghese. Mi ha detto: Gianni, sicuramente sì, ma non capisco una cosa, perché c'erano i sottotitoli sotto. Allora a quel punto, come c'erano i sottotitoli? Io tante volte sui termini li prendo da un vocabolario e li trasmetto su una frase costruita. Però i significati. Come si dice uno spazio? Cambiano. Ad esempio, io tante volte davanti a certe partite, beh, ma drammatizziamo, mica è una guerra, questa è una guerra. Spalancavano gli occhi così, per loro guerra è guerra, dico, beh, da noi metaforicamente si sa che dice. A volte io mi rendo conto dalle espressioni che ho davanti, che sono i giornalisti, che non hanno capito sicuramente quello che io volevo dire. Filmale sì, tu e Andre, già tante culture. I look only that, va. There is the opponent e going goal. And then no, be careful. Sempre vicino un interprete che quando capisce che realmente che sono uscito dal seminato mi riconduce dentro. No? Yes. Bla bla bla, no. Ogni tanto io parlo come questi stranieri, buco un prank e dico. a volte parlo sempre all'infinito, magari. Trap riesce ad indirizzare il suo comunicare là dove vuole arrivare lui, come confermano Tony Donog, corrispondente sportivo da Dublino, e Marco Tardelli. All'inizio il suo inglese non era dei migliori, ma ciò nonostante riusciva a comunicare perfettamente. Trapattoni ti parla con il corpo, con le mani, i suoi occhi ti colpiscono, sorride sempre e gesticola in continuazione. È capace di comunicare senza parlare. Mai ha un'esperienza con i giornalisti, riesce a girare intorno alle domande. Alla fine va via e i giornalisti lo stimano. È davvero un tipo fuori dal comune. Molti allenatori sono telegrafici, è molto difficile convincerli a sbottonarsi. Trapattoni invece non riesce a zittirlo. Deve avere sempre una risposta in più piuttosto che non rispondere ad una domanda. E le risposte Trapattoni le ha sempre date sul campo. Ha vinto 10 campionati in 4 paesi diversi. Una Coppa dei Campioni, 3 Coppe UEFA, una Coppa delle Coppe, una Coppa Intercontinentale, e ha ottenuto risultati sorprendenti con le sue tattiche di gioco, con le sue scelte fatte dalla panchina, ma soprattutto impostando il lavoro coi calciatori nello spogliatoio, come ci racconta contano e come testimoniano i suoi colleghi. Molto importante appunto promuovere in questi giocatori la motivazione che nulla ti viene regalato, che chi ti trovi di fronte è sicuramente un antagonista che vuole prevalere su di te o vincere. La forza di Mister Trapattoni è proprio questa, di essere forse più giovane dei giovani che allena lui. Gli dico solo questo, ancora fa le partitelle anche lui, per cui si cimenta con loro. Trapattoni, allenatore della Juve, nelle partitelle del mercoledì marcava sempre Platini, non ne prendeva uno a caso, gli piaceva proprio l'idea di bloccare dei dribbling a Platini ed era tutto contento quando ci riusciva. Alla fine poi era anche bello batterlo, perché c'era sempre la scommessa, giocare contro la squadra del Tra. E lui gli piace urlare, perché se in panchina non ti fai sentire dei giocatori, è inutile che tu ci stia. Io non devo urlare, cavolo. Do you think I should shout? O rimprovero o stimolo anche magari qualcuno se ha avuto degli atteggiamenti, cerco una reazione da parte dei giocatori. La forza del Trapattoni è di creare un gruppo e anche ovviamente sa benissimo il calcio. Sa fare gruppo e capisce benissimo di calcio, la sintesi delle qualità del Trap fatta da Liam Brady. E proprio con Brady Trapattoni ha dovuto interpretare uno dei ruoli più scomodi dell'allenatore, quello di chi deve affrontare scelte difficili. Sentiamolo. Ci sono dei momenti in cui l'allenatore ha un dovere, ed è chiaro che quando tu annunci queste cose dispiace. Solo poi più avanti nella vita ci si rende conto con delle responsabilità che uno non ha il potere di farlo, ha il dovere di farlo. Lo dovetti dire con le lacrime agli occhi quando... In quel periodo bisognava comunicare a Brady che era stato acquistato Platini. Nonostante i successi, Brady viene scaricato dalla Juventus per l'acquisto dell'asso francese e a comunicarglielo sarà proprio il mister. Sentiamoli. Sabato sera, prima di una gara, io in stanza sua disse: niente, devo dire, comunicare una notizia che ti farà dispiacere senz'altro. Lui mi ha sempre dato fiducia. È la vita, è il calcio. È il calcio specialmente in Italia. Vent'anni più tardi, ad essere escluso dalla rosa dei giocatori è Roberto Baggio, questa volta in nazionale. Baggio non convocato, io Baggio sono stato a cena con lui. Prima di essere operato a novembre-dicembre, da lui a casa... E dicendo: operati, fatti vedere, gioca, e gioca solo all'ultima domenica a Brescia, e noi dopo neanche una settimana dovevo dare la lista. Qui c'ho il cuore, c'ho gli affetti, ma di qui c'ho la responsabilità, che è tutta un'altra cosa. Disse: Roberto, non sono in grado. Insomma, anche nei momenti più difficili Trapattoni non si smentisce, autorevole ma non autoritario, deciso ma non arrogante, consapevole delle proprie responsabilità, senza mai perdere il rapporto umano con i calciatori, caratteristiche simili a quello del suo modello Nereo Rocco. Con il mitico Paron, infatti, Trapattoni ha iniziato la sua carriera come secondo allenatore sulla panchina del Milan, e da lui ha imparato molto, come racconta Gianni Rivera. Credo che Giovanni abbia preso un po' da questa capacità di Rocco di portare avanti, prima che un discorso tecnico, un discorso sul piano umano. Edo Rocco era un allenatore, un atipico, forse appariva burbero, però era molto sensibile ed era come un papà. Ha trasmesso quello che era il dialogo all'interno di uno spogliatoio. Lo spogliatoio lo ha inventato lui. A volte burbero, però il giorno, subito dopo mezz'ora, ti trovavi a tavola, magari si beveva anche mezzo bicchiere di vino insieme. Domani faremo un allenamento solo la mattina, chi che ha moglie, fidanzate, roba seria però, puoi venire a pranzo qua da noi. Sono sempre disposto al dialogo, perché il dialogo mi ha portato a non essere coercitivo, all'esclusione totale, perché poi ho degli esempi dove alla fine il calciatore mi fa vincere un campionato invece che escluderlo, perché poi alla fin fine è il calciatore che va in campo. Da Nereo Rocco, Trapattoni non eredita solo la capacità di gestire lo spogliatoio, ma anche lo schema di gioco. Rocco crea un modulo, lo chiama Maginot, molto fantasiosamente, ed è proprio dall'esaltazione del gioco difensivista italiano che arriva l'etichetta per il trap, come raccontano Beppe Bergomi e lo stesso mister. Quelle etichette che ti porti dietro da sempre e poi fai fatica a tirartele via, anche quando magari proponi un buon calcio. Chi non lo sa, dico, guarda, ci sono dei libri, ma non perché io sono bravo. Tu guarda i gol che hanno fatto le squadre che ho allenato e quante ne ha subiti, poi deducete voi. La storia di Trapattoni su Mix 24, continuiamo dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24, quella che raccontiamo oggi è la storia di un grande mister, Giovanni Trapattoni, a cui non piace l'etichetta di allenatore difensivista che gli è stata affibbiata. Per togliersela di dosso cita dati e numeri, ad esempio i risultati della sua Juve dei record. 10 titoli vinti, 969 gol segnati in 596 partite, subendone solo 478. Ma prima di essere un allenatore di successo, come spesso capita, il Trap è stato un giocatore. Un difensore che ha dato i primi calci nell'oratorio del suo paese, Cusano Milanino. Noi facevamo, ci organizzavamo per fare le guerriglie a Sassate. Penso un po' che bella infanzia era quel periodo lì. Pensa, ecco, come l'uomo nasce già con l'istinto guerriero. Ho fatto le medie, poi l'ho smesso. E però poi ho cominciato a lavorare, facevo il tipografo al mattino e poi al pomeriggio andavo ad allenarmi. Mio padre non voleva che giocassi perché nella mentalità, mio padre di origine bergamasca, diceva che ne andava di mezzo alla salute, quindi poi a quei tempi spaccavo le scarpe, costavano care, quindi facevamo fatica, in casa si faceva fatica a tirare avanti. Fino a quando il Milan disse no, vieni ad allenarti, mi passarono uno stipendio sufficiente per me e mia madre, per me non è che si vivesse alla grandissima, però diciamo era utile per mantenerci decorosamente, via. I primi soldi da calciatore, una vita semplice, senza troppe pretese, ma anche una grande determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. L'obiettivo di Trapattoni, giovane calciatore del Milan, è soprattutto quello di marcare stretto gli avversari, come raccontano i giocatori Gianni Rivera, Beppe Furino e il presidente onorario della Juve, Giampiero Boniperti. Era un grande marcatore, ma sapeva anche poi mettere la palla dove era importante metterla. Era un faticatore, un uomo che allora il Milan viveva su il personaggio Rivera. Lui era dietro a Lido Olmeam e a Scaffino ed era stato, era simpatico, come mi diceva. Io con la palla cercavo subito uno dei due perché la giocavano meglio di me. Non era neanche tra quelli che si attaccava alla maglia. Io non ero un campione. Era uno che giocavo sui campioni, contro i campioni, i Pelé, i Sivori, il Maschio. E questo, gli Eusebio, i Cruyff. E questo mi ha portato la fama, ma non perché ero bravo. Loro erano bravi. E quindi questa non rivincita, questa sfida con loro mi ha portato ad avere i miei risultati. E infatti i suoi risultati da calciatore Trapattoni, lo avete sentito, li ottiene proprio marcando i grandi campioni, i più grandi di quell'epoca: il fuoriclasse portoghese Eusebio, stella del Benfica, l'olandese Cruyff, il più grande di tutti i tempi, Pelé. Il Trap giocava soprattutto per non far giocare l'avversario. Passa alla storia infatti la sua marcatura a Pelé nella partita Italia-Brasile. Ce ne parlano Beppe Furino e il giornalista Bruno Longhi. Quando il nazionale marcò Pelé e non gli fece vedere palla, se l'è portata appresso per tutta la vita. Insomma, lui è quello che ha fermato Pelé. Dopo la partita della nazionale contro il Brasile di Pelé, Trapattoni è chiamato ad un'altra sfida impossibile, quella con il fuoriclasse del Benfica, Eusebio. È la finale di Coppa dei Campioni a Londra. Così ne parla lui stesso, intervistato dai giornalisti nel 1963. Spero di poter, poter ripetere quella prova che feci domenica. Comunque è un po' presto parlarne, perché tanto più che domenica Pelé era in condizioni precarie, ciò che non sarà certamente di Eusebio. Comunque spero che anche questa volta mi vada bene. Qui Londra, stadio di Wembley, vi parla Nicola Casio. Sono le 14:56, ora estiva del meridiano di Greenwich. Cielo sereno, temperatura ideale, campo ottimo. Il Milan soffre. Al 18° del primo tempo, Eusebio si beve la difesa rossonera e passa in vantaggio il Benfica. Negli spogliatoi il Paron corre ai ripari. Trapattoni, il suo uomo di fiducia, con la maglia numero 6 dovrà marcare Eusebio. Il Trap e i suoi compagni ce l'hanno fatta. Hanno vinto la Coppa dei Campioni. Nessun club italiano l'aveva mai vinta. Pareggio! Milan 1, Benfica 1. Rete! Trapattoni lo hanno definito nei secoli fedele. Trap è veramente una bandiera del Milan, no? E tra l'altro il vice capitano. Da quanti anni milita nei rossoneri? Dunque dal 55-56, fin dai ragazzi. Fin dai ragazzi, sì. Quindi proprio proviene dal vivaio. Sì, dal vivaio del Milan, sì. È sempre rimasto in questa società. Sì, fortunatamente sì. Fortunatamente. E auguri, no? Grazie. Naturalmente, per continuare a rimanerci. E invece, dopo questa intervista di Enzo Tortora alla Domenica Sportiva, il Milan scarica il suo vice capitano Trapattoni, che viene venduto al Varese. È un fulmine a ciel sereno, un colpo durissimo quanto inaspettato, ma in pochi mesi arriva anche la svolta che cambierà per sempre la vita del Trap. Il suo allenatore al Milan, Nereo Rocco, gli offre infatti il posto di vice sulla panchina rossonera. Ma anche quell'incarico al Trap va stretto. Dopo solo un paio di stagioni, Trapattoni vuol fare il salto, si sente maturo per avere una panchina tutta sua. Accetta allora una squadra meno blasonata, l'Atalanta. Poi però, proprio alla vigilia della firma del contratto, un clamoroso colpo di scena. Protagonista Giampiero Boniperti, che insieme a Trapattoni ricostruisce così la vicenda. Stavo sottoscrivendo già il contratto con l'Atalanta. L'ultima settimana del campionato, e questo amico che è Angelo Caroli, e mi disse: Giovanni, guarda che ci sarebbe Boniperti che vorrebbe parlarti. Boniperti e me. Boniperti mi stava seguendo da un po' di tempo e da comuni amici chiese ad Albertosi: ma gli allenamenti li fa Trapattoni, la squadra chi la dirige? Albertosi disse: no, fa tutto Giovanni. Allora l'ho chiamato e mi ha detto: ma io già sono già imparolato con l'Atalanta. A un certo punto mi dice: ma ti piacerebbe allenare la Juve? Dico: beh, vengo a piedi da Milano. Allora non c'è problema, l'Atalanta, tutti i miei amici. Infatti ho chiamato Achille Bertolotti, dico: sì Achille, so che Trapattoni è già impegnato con te, lo vorrei prendere io la Juventus, mi metto sull'attenti, prendilo pure. Inizia così la storia di una relazione calcistica, quella tra la Juve e Trapattoni, tra le più prolifiche di tutto il calcio italiano. Una squadra di grandi campioni che vince tutto e che con l'allenatore costruisce giorno dopo giorno, applicando il suo credo calcistico non senza sorprese, come ricordano Beppe Furino, Dino Zoff e lo stesso Trapattoni. Ma all'avanguardia per quei tempi, perché mise i due terzini a zona sulle fasce, un mediano di regia difensiva, dei centrocampisti che partivano con una velocità incredibile, cioè doveva avere gli uomini per poterlo sviluppare. Una squadra completa, formata da tutti italiani, ognuno con la propria personalità, era difficile dire questo è il leader. Erano tutti leader nel loro ruolo. Direi che poteva essere considerato uno di noi, anche se lui aveva la responsabilità di dirigere questa squadra. Un allenatore vince col talento calcistico del suo gruppo, ma soprattutto con l'intelligenza dei giocatori che ha a disposizione. Se hai un gruppo intelligente ti salvi da una retrocessione con un punto in più, vinci un campionato con un punto in più. E Trapattoni sa bene di che cosa parla alla fine della sua prima stagione. La Juventus e i bianconeri si giocano tutto all'ultima giornata di campionato e per un solo punto. Prima però i ragazzi del Trap devono affrontare un'altra sfida decisiva. È il 18 maggio del 77. A Bilbao si gioca la partita di ritorno della finale di Coppa UEFA. Sentiamo i protagonisti di quella partita, Dino Zoff, Claudio Gentile e lo stesso Trapattoni. Vincemmo 1-0 a Torino contro l'Atletico di Bilbao. Poi siamo andati a fare al ritorno a Bilbao. Che era difficile. Io stesso mi chiedevo se avremmo vinto o no. A quel tempo la Coppa UEFA aveva un valore quasi come la Champion adesso. Fu una battaglia straordinaria perché 1-1, 2-1 per loro. Il Trap incita i suoi ragazzi a resistere. Anche per spronare un pochettino una reazione, tante volte dici bene, quel momento lì magari mi devi odiare, però vai in campo e mi dimostri che... Quindi abbiamo resistito l'ultimo quarto d'ora proprio come in un fortino di guerra. Però siamo riusciti, nonostante la sconfitta del 2-1, col gol in trasferta, a vincere questa Coppa. Era Dino Zoff e la Juve alza per la prima volta la Coppa UEFA. Fu il trofeo internazionale d'allenatore. Poi siamo partiti con l'aereo dell'avvocato, siamo andati a Genova, che dovevamo giocare con la Sampdoria e dovevamo vincere con la Sampdoria perché il Torino era un punto. Così il presidente della Juve, Giampiero Boniperti. Quattro giorni dopo, Trapattoni vince il suo primo scudetto. I gol della vittoria sono firmati Bettega e Tardelli. Ci fu un carosello tutte le strade di Torino tutta la notte. Tutta la notte, al mattino, una cosa straordinaria. Eravamo in giro per la città, quindi da lì si un po' è così, con l'entusiasmo dei grandi di tutti i tifosi. Con la storia di Trapattoni continuiamo su Mix 24 subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24, stiamo ripercorrendo la storia di un giocatore, poi allenatore, che colleziona in 40 anni grandissimi successi, Giovanni Trapattoni. L'entusiasmo porta il Trap e la sua Juve a raggiungere tantissimi programmi, uno però sembra irraggiungibile, è la Coppa dei Campioni, il trofeo più ambito dai bianconeri. Per Trapattoni è un sogno che sembra finalmente avverarsi il 25 maggio del 1983. Ad Atene la Juventus si gioca la Coppa nella finale contro l'Amburgo. Vedo da parte dei ragazzi da alcuni giorni una grande motivazione, c'è un grande incentivo da parte loro, si stanno veramente preparando molto bene, si entrano nella forma giusta la partita e io sono convinto che non deluderanno nessuno. dopo aver visto questo Amburgo due o tre volte, dissi: è una squadra difficilissima. Per vincere contro l'Amburgo, Trapattoni ha di fronte a sé una scelta dura: effettuare un cambio di formazione. Dovevo escludere un giocatore, indipendentemente dal nome. Non dovevo avere due attaccanti, uno solo, perché sulle fasce laterali questa squadra era estremamente forte. A rimanere fuori potrebbero essere Bettega e Rossi, come raccontano proprio Paolo Rossi e poi Trapattoni. Io ho sempre creduto che alla fine, insomma, bisognava accettare certe scelte. Da giocatori si fa anche un po' fatica molte volte a capire la nostra condizione. Siamo tutti molto presuntuosi nel credere che siamo sempre più bravi, migliori in tutte le situazioni. Ne parla anche con Boniperti, perché sì, come possiamo escluderne uno? E ci schierammo come era giusto e doveroso per rispetto a tutti quelli che ci avevano portato in finale. Nessun cambiamento tattico, le due punte Rossi e Bettega restano. Ma i dubbi del Trap erano fondati, come ci raccontano lui stesso, il giocatore Claudio Gentile e il presidente Giampiero Boniperti. Perdemmo perché l'Amburgo ci fu superiore, non è vero, disse ormai il gol di Zoff. Quella è stata sicuramente una delle sconfitte più pesanti da digerire, ancora adesso lascia un po' il segno. Senta, io non vorrei parlarne di quella cosa lì, perché abbiamo sofferto troppo. Abbiamo sofferto troppo. Per dirigenti e tifosi della Juve, quella di Atene sembra una ferita ancora aperta. Forse una scelta tattica sbagliata, forse un errore di una formazione decisa con il cuore più che con la testa. Nella stagione successiva la Juventus vince lo scudetto. 2 anni dopo la Coppa dei Campioni finalmente arriva, ma è una vittoria drammatica, segnata dalla tragedia dell'Eisel. Ancora un anno e nell'86 la Juve vince anche la Coppa Intercontinentale a Tokyo. Trapattoni, insomma, è inarrestabile, eppure proprio all'apice del suo successo il Trap prende una decisione che sorprende tutti. Sentiamolo. Quel momento lì avevo qualche contatto con l'Inter e allora, quando lo seppe l'avvocato, fa: ma no, ma guardi, noi pensavamo di farne il vice Boniperti. L'avvocato: sono un po' troppo giovane per fare il vice Boniperti. Andare a allenare l'Inter è stato un mezzo dramma. Alla Juve dice: beh, è facile vincere la Juve. I Postini Pellegrini abbiamo costruito sulla carta una squadra che poi è stata completata dopo 3 anni e che ha vinto. E gol! E sancisce la meritatissima, direi, vittoria dell'Inter nello scudetto 1989. Con 26 vittorie su 34 partite, l'Inter de Record vince lo scudetto. L'anno successivo è la volta della Coppa UEFA. Oltre ai successi della Juve, ottiene dei successi, la Coppa UEFA e il campionato. Diciamo che a livello di opinione pubblica ti senti allenatore. Io mi sentivo già prima, perché i successi ottenuti sono sempre stati sudati. E dopo i successi sudati con la Juventus, l'Inter, il Bayern Monaco, Trapattoni raggiunge il traguardo più ambito da ogni allenatore: la panchina della nazionale italiana. Tra gli azzurri il Trap porta il suo stile, ottiene la qualifica ai mondiali di Corea del 2002 e si fa conoscere anche per i suoi atteggiamenti originali durante le partite, come testimoniano il giocatore Paolo Rossi e lo stesso Trapattoni. Lo si è visto anche in varie circostanze, insomma, acque sante, cose, madonnine, insomma. Oramai sono diventato famoso per l'acqua santa che io mi porto appresso. Io ho una sorella che è una suora e quindi dice: questa ti preserva dalle situazioni negative, non ti fa vincere, perché sarebbe veramente allora essere pagano. La fede mi aiuta nei momenti difficili, mi aiuta quando le cose non vanno bene, anche se nella mia lunga carriera mi sono andate più bene che male e ci sono anche le sconfitte. Vittorie e sconfitte. Va avanti anche il mondiale di Trapattoni. La nazionale azzurra supera a fatica il primo turno. Poi, agli ottavi di finale, incontra la Corea dei padroni di casa. La natura nazionale italiana è come un condannato a morte che non sa mai qual è la data della sua esecuzione. Rigore dato, un rigore perso. C'è subito il calcio di rigore per la Corea del Sud. E lo para. A me hanno buttato fuori Totto per un rigore presunto. No, è giusto. In un'altra circostanza è stato dato un rigore. Quindi Lee Chun fuori a favore di Lee Yong. Giocavamo con la squadra, una delle azioni che organizzava è lo stadio loro. Non fammi dire essere un complotto meno. Io dico che avevamo un avversario in più. La stampa se la prende con l'arbitro Moreno, ma non risparmia le critiche al trap, come raccontano Gianni Rivera e Trapattoni stesso. Se vinci sei bravo, se arrivi secondo sei da cambiare. La stampa risente anche delle cose che ascolta a livello confidenziale dai dirigenti, dall'ambiente stesso, del calcio, e quindi poi alla fine vox populi. Le sconfitte mi lasciano un segno momentaneo. Ho la fortuna di dormire la notte, mi rivedo la gara se ho commesso degli errori. Oppure sono sereno in dire ho pensato a tutto, a volte dico doveva andare così. Ma se in Corea doveva andare così, per Trapattoni con la nazionale le cose non vanno bene neanche dopo. Gestire il gruppo della nazionale si rivela più difficile del previsto. In una squadra di club si ottiene di più perché tu la plasmi, perché tu la porti avanti un progetto. Io molte volte dico che faccio il prete e non l'allenatore. Perché passo sempre nelle stanze, sempre, a dire perché uno gioca, perché non gioca, spiegando tutte le motivazioni. Questo non da oggi, da prima della Corea del Giappone, da prima di quando facevo allenatore, da tanti di quegli anni, questo è sempre stato il mio compito. Lisbona, Euro 2004, Trapattoni ci riprova, ma il gruppo sbanda ancora, come raccontano lui stesso e Beppe Severgnini. Ci sono stati dei passaggi a livello che non sono stati fortunati, il rinnovo di alcuni giocatori, gli infortuni di altri e qualche risultato, commetti anche qualche errore, però io credo di aver fatto tutto quello che era doveroso fare, insomma. Quest'uomo sconfitto, chiaramente in uscita dalla nazionale con un sacco di pretendenti al suo posto, in qualche modo difendeva il suo operato, avrebbe potuto dire che un altro gol di tacco Ibrahimovic così non lo faceva più, avrebbe potuto vantarsi di essere stato l'unico ad aver fatto giocare Cassano in quel modo in nazionale, avrebbe potuto ricordare che se Totti avesse giocato di più e sputato un po' meno sarebbe stato il campione che è, avrebbe aiutato di più l'Italia. Non l'ha fatto, era lì, sembrava il capitano di un libro di Corral, che è proprio felice che ci sia la tempesta perfetta per provare che in qualche modo lui è un uomo. E proprio come per un capitano coraggioso, per Trapattoni la vita sembra essere un'avventura da affrontare giorno per giorno, traguardo dopo traguardo, sfida dopo sfida. Trapattoni insomma è un personaggio unico nel mondo del calcio, che ha vissuto da oltre mezzo secolo sempre come protagonista, prima da calciatore, poi da allenatore. Un maestro, un leader simpatico e carismatico, un lavoratore infaticabile, un poliglotta, un'icona del calcio italiano, in una parola, il trap. Nel calcio c'è una filosofia, tutta la vita è una sfida, è ciò che hai vinto oggi, domani ti devi riproporre, quindi è andata bene oggi, domani c'è una competizione, dopodomani c'è un'altra persona, un altro lavoro che deve essere fatto sempre ottimamente. E direi che è uno stimolo continuo, perché la vita è uno stimolo continuo, non ci si può mai sedere se no un altro ti passa davanti, quindi è vivere alla giornata tutto ciò che ti viene proposto facendo il meglio. Una parola leader è come, per me è mediatica e magari i ragazzi che ti seguono ti vedono in questa sfera. A me interessa essere un loro maestro, insegnare, avere la soddisfazione di farli crescere, di ottenere insieme dei risultati. Il calcio ti fa gioire, ti fa soffrire, ti fa ripartire, quindi diciamo che c'è sempre l'opportunità di rifarti. Magari da piccolo sogni di poter giocare anche così, per divertimento e in Serie B. Io me la sono trovata davanti, questa strada aperta, non ho lasciato perdere la palla che rimbalzasse troppo, questa fortuna l'ho raccolta al volo, mi è andata bene. Corvallis, soluzioni software innovative per banche e assicurazioni, da 25 anni. Vi ha presentato... Mix 24.